Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Riprendiamo il nostro viaggio dedicato in occasione del piano Casa Italia a fare il punto sulle principali tecnologie di riqualificazione edilizia. E dopo aver parlato soprattutto di riqualificazione energetica, vogliamo dedicarci un altro tema almeno altrettanto urgente, cioè quello della riqualificazione sismica. La sequenza di sismi degli ultimi anni ha mostrato tutta la vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano, con edifici che sono stati sbriciolati da terremoti anche intensi, ma non terribili come quelli che pure in quelle stesse aree potrebbero verificarsi nel caso peggiore. E così, insomma, solleva qualche perplessità l'idea, in zone ad alto rischio sismico, di appiccicare cappotti, mettere pannelli sui tetti e sui muri, che però poi rischiano di sbriciolarsi o anche solo di danneggiarsi al minimo scuotimento del terreno. Pensiamo ai danni subiti addirittura a Roma. Ma insomma, torniamo al punto, ci domandiamo: esistono tecnologie o metodologie per intervenire contemporaneamente con una sola quindi attività di riqualificazione, sia sul capitolo sismico che su quello energetico? Beh, c'è chi sta lavorando su questo tema. La professoressa Alessandra Marini del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell'Università degli Studi di Bergamo, che è attiva in questo campo insieme all'Università di Brescia. Buonasera Marini. Buonasera Meli. Allora, esistono delle soluzioni sperimentate che permettono di intervenire su entrambi i capitoli, energetico e sismico? Allora, sicuramente si può lavorare a più livelli, e questo è quello che stiamo facendo presso queste due università. Innanzitutto un livello 1 è quello nel quale si accoppiano soluzioni già esistenti. Per esempio, si accoppia il cappotto a un intervento con introduzione di setti sismoresistenti. A tal fine mi fa piacere ricordare che noi proponiamo interventi condotti dall'esterno, sì. Riteniamo che questa sia una qualità importante dell'intervento. Ci siamo resi conto che la rilocazione degli abitanti e così pure l'interruzione della funzionalità dell'edificio siano fattori che portano alla rinuncia, ecco, sì, all'intervento. Sì, sì, perché molti degli interventi proposti invece richiedono questo, no? Rinforzo cosiddetto dei nodi strutturali dell'edificio, richiede parecchie demolizioni, ricostruzioni. E questa è sicuramente una delle caratteristiche delle soluzioni che proponiamo. La seconda, altro fattore determinante, è che cerchiamo di lavorare perché l'intervento sia, alla fine, garantisca la sostenibilità dell'intervento, e questo lo otteniamo lavorando con determinate tecnologie, determinati materiali. Il nostro obiettivo è che l'edificio a fine vita sia interamente smontabile e il materiale riutilizzabile e riciclabile, per arrivare quasi a un edificio a rifiuto zero. Ecco, dicevamo che però voi avete tre approcci, tre livelli per affrontare contemporaneamente questi due capitoli. Uno, ce l'ha citato, quindi si fa un intervento e gli si appiccica sopra l'altro, diciamo un po' così. Esattamente, livello 1. Il secondo invece, andiamo a realizzare proprio un nuovo involucro. Okay. Stiamo parlando, l'obiettivo qui è di lavorare su condomini con vincoli urbanistici meno pesanti dell'edificio in un centro abitato denso quale un centro storico. Ecco, qui voi proponete di intervenire costruendo intorno a questo ipotetico condominio una specie di seconda scatola, di seconda pelle, non so come si può chiamare. Secondo involucro. Okay. Infatti l'intervento che proponiamo rappresenta l'evoluzione degli interventi in doppia pelle che oggi sono abbastanza tipici in Europa e consentono di introdurre questo nuovo involucro, che è finalizzato al restyling architettonico. È un involucro sul quale vengono equipaggiate le tecnologie per consentire l'efficientamento energetico. Ecco che noi ripensiamo questo involucro per inserire anche tutti i presidi che rendano poi quell'involucro una scatola rigida e resistente, che renda antisismico il suo contenuto sostanzialmente. Esattamente, e questa è una soluzione. Ecco, a volte si interviene su edifici esistenti creando cosiddette facciate areate, che sono quelle strutture a vetri, a volte addirittura esterne, no? Voi suggerite qualcosa del genere, però anche con delle funzioni strutturali, quindi? Esattamente, è possibile pensare di ingegnerizzare queste facciate continue, tipo quelle, sì, che ha citato lei, o le facciate ventilate, affinché quella facciata abbia anche un ruolo strutturale importante e renda antisismico l'edificio. Veniamo al terzo livello, quello più raffinato. Il terzo livello è proprio di ripensare la scatola. A questo punto, se io ho una scatola, immagini questo cappotto che realizziamo con l'involucro, ecco che questo cappotto può avere la doppia funzione. Allora i pannelli che uso per l'energia li voglio anche pensare, concepire fin dall'inizio perché siano anche strutturali. E questo però richiede delle tecnologie oggi non ancora disponibili e che sono in questo momento allo studio. L'involucro può essere pensato sia in aderenza all'edificio, quindi davvero un cappotto energetico e strutturale, ma anche può essere posto a una certa distanza, e questo ci consente di realizzare per esempio nuovi spazi abitativi oppure di realizzare un sopralzo, e pertanto l'aumento di volumetria, l'aumento di superficie commerciale consente di compensare in parte i costi della riqualificazione. Laddove possibile, questa è una strada interessante. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie professoressa Alessandra Marini, ma mi sa che ci risentiremo. Senz'altro domani parliamo di un'altra delle vostre attività di ricerca. La ringrazio, buonasera.